ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Martin Eden di Jack London, traduzione di Cecilia Scerbanenko. Di tanto in tanto Martin incontrava Lizzie. Era chiaro che la ragazza non era contenta del suo grande successo, perché accresceva la distanza che li separava. Forse fu nella speranza di diminuirla che Lizzie si lasciò persuadere a iscriversi a una scuola serale e poi a un istituto professionale e a lasciarsi abbigliare da un fantastico sarto che praticava prezzi oltraggiosi. La ragazza migliorava visibilmente di giorno in giorno, finché Martin si chiese se ciò che stava facendo fosse giusto. Sapeva che la compiacenza e gli sforzi di Lizzie erano diretti a lui, che la giovane stava cercando di aumentare il proprio valore ai suoi occhi, quel tipo di valore che sembrava lo interessasse. Eppure Martin non le dava alcuna speranza, la trattava fraternamente e si faceva vedere soltanto di rado. La Meredith Lowell Company si affrettò a lanciare sul mercato, tempo scaduto, nel momento di massima popolarità di Martin. Le vendite, poiché si trattava di narrativa, furono ancora più alte di quelle di La vergogna del sole. Per settimane Martin fu colui che, unico fra tutti gli scrittori, godeva dell'incredibile prerogativa di avere due sue opere in testa alle classifiche dei libri più venduti. Il romanzo, infatti, non catturò solo gli amanti della narrativa, infatti anche coloro che avevano letto La vergogna del sole con avidità furono affascinati da quelle avventure marinare per la demiurgica maestria con la quale l'autore aveva saputo trattarle. In prima battuta Martin aveva attaccato la letteratura spiritualista e lo aveva fatto incredibilmente bene. Poi aveva fornito, e con successo, un esempio di quella letteratura che aveva proposto, mostrando così di essere uno di quei rari geni, critici e creatori a un tempo. Denaro e fama gli si riversavano addosso, e Martin tarteggiava come una cometa attraverso il mondo della letteratura, più divertito che interessato dallo scompiglio che aveva provocato. C'era qualcosa che lo lasciava perplesso, una piccola cosa che avrebbe lasciato perplesso il mondo se lo avesse saputo, ma il mondo si sarebbe interrogato più sui motivi della perplessità di Martin che su quella piccola cosa, quella che per Martin giganteggiava in lontananza. Il giudice Blount lo aveva invitato a cena. Quella era la piccola cosa, o meglio, era stato l'inizio di quella piccola cosa che presto sarebbe diventata gigantesca. Martin aveva insultato il giudice Blount, lo aveva trattato in modo abominevole e il giudice Blount, incontrandolo per strada, lo aveva invitato a cena. Martin ritornò con il pensiero alle numerose occasioni in cui lo aveva incontrato a casa dei Morse. Allora il giudice non lo aveva mai invitato a cena. E perché non lo aveva mai invitato a cena? Lui non era cambiato, era sempre lo stesso Martin Eden. Cosa c'era di diverso? Il fatto che la roba che scriveva fosse apparsa all'interno di una copertina dal libro? Ma quelle cose Martin le aveva scritte già allora. Non si trattava di qualcosa di nuovo, bensì di un lavoro già concluso, un risultato ottenuto tempo prima, quando il giudice Blount condivideva l'opinione generale sul misticismo e si faceva gioco di Spencer e dell'intelletto del filosofo. Di conseguenza il giudice Blount non invitava Martin a cena per una sua reale qualità, ma solo perché attratto dal valore fittizio che ultimamente si era aggiunto alla persona di Martin Eden. Martin sogghignò e accettò l'invito, meravigliandosi contemporaneamente per la propria compiacenza. A cena sedeva una mezza dozzina di coloro che occupavano i posti più alti, insieme alla loro controparte femminile, ma la parte del leone spettò a Martin. Poi In privato, il giudice Blount, spalleggiato con calore dal giudice Unwell, e lo sollecitò a permettere loro di presentare il suo nome allo Styx, il club super esclusivo al quale appartenevano non uomini semplicemente ricchi, ma anche di successo. E Martin declinò l'offerta, ancora più perplesso. La sistemazione dei manoscritti teneva Martin occupato. Era subissato dalle richieste degli editori. Critici e lettori avevano scoperto che Martin Eden aveva stile, ma che sotto lo stile c'era sostanza. The Northern Review, dopo aver pubblicato La culla della bellezza, gli aveva chiesto una mezza dozzina di saggi simili, saggi che Martin avrebbe fornito a quella rivista traendoli dal mucchio dei manoscritti, se il Barton's Magazine, deciso a speculare, non gli avesse offerto $500 a saggio per una serie di 5 saggi. Martin rispose che accettava, ma a $1,000 a saggio. Non poteva dimenticare che i suoi lavori erano stati rifiutati da quelle stesse riviste che adesso si accapigliavano per averli. E quei rifiuti erano stati freddi, automatici, stereotipati. Lo avevano fatto sudare freddo. E ora Martin intendeva far sudare freddo quei direttori. Il Barton's Magazine si accaparrò i 5 saggi al prezzo deciso da Martin, mentre i restanti 4 andarono allo stesso prezzo al Macintosh Monthly. The Northern Review non poté tenere il passo perché troppo povera. Così se ne andarono per il mondo la sacerdotessa del mistero, i sognatori di meraviglie, il metro dell'ego, la filosofia dell'illusione, Dio e argilla, arte e biologia, critica e provette, polvere di stelle e la dignità dell'usura, sollevando tempeste, clamori e mormorii destinati a durare giorni e giorni prima di placarsi. Gli editori scrivevano a Martin chiedendogli di stabilire lui stesso i termini del contratto, cosa che Martin faceva, ma l'oggetto di quelle trattative erano sempre cose che aveva già scritto. Si rifiutava categoricamente di impegnarsi in un nuovo lavoro, il solo pensiero di appoggiare una penna sulla carta lo faceva impazzire. Aveva visto la folla fare a pezzi Brissenden. E, sebbene nel suo caso la folla lo acclamasse, non riusciva a riprendersi da quella ferita e neppure a provare un qualsiasi rispetto per la folla. La propria popolarità gli appariva come una sventura. Gli sembrava di aver tradito Brissenden. Si sentiva fremere, eppure decise di andare avanti fin quando il suo sacco dei soldi fosse stato pieno. Martin riceveva dagli editori lettere simili alla seguente. Circa un anno fa abbiamo avuto la sfortuna di rifiutare una sua raccolta di poesie d'amore. Ci aveva fatto un'enorme impressione già all'epoca, ma purtroppo a causa di alcuni accordi già presi non abbiamo potuto acquistarla. Se fosse ancora disponibile e se lei sarà così gentile da farcela avere, saremo felici di pubblicare l'intera raccolta alle condizioni che vorrà proporci. Ci stiamo anche impegnando per presentarle, quanto prima, una proposta più che vantaggiosa per la pubblicazione in libro. Martin rimise insieme la sua tragedia in versi sciolti e la inviò alla rivista al posto delle poesie d'amore. Prima di spedirla, volle rileggerla e fu colpito da quanto fosse saccente e amatoriale e in generale priva di valore. Ma la mandò ugualmente. E per eterno rammarico dell'editore, la tragedia fu pubblicata. Il pubblico, incredulo, si indignò. Quella fesseria pretenziosa era troppo lontana dall'alto livello di Martin Eden. Alcuni sostennero che non ne fosse lui l'autore, altri che Martin Eden stesse emulando Dumas padre, il quale, all'apice del successo, pagava degli scrittori perché lavorassero al suo posto. Ma quando Martin spiegò che la tragedia era un prodotto della propria infanzia letteraria e che la rivista non aveva avuto pace fino a quando non era riuscita a impossessarsene, il pubblico si fece una grande risata a spese degli editori. Naturalmente, a quella risata fecero seguito alcuni cambiamenti ai vertici della rivista e la tragedia non uscì mai in libro, benché l'autore si fosse già intascato il relativo anticipo. Coleman's Weekly inviò a Martin un lunghissimo telegramma dal costo di circa $300, offrendogli $1,000 ad articolo per una serie di 20 articoli. Martin avrebbe dovuto viaggiare per gli Stati Uniti, con tutte le spese pagate, e scegliere qualsiasi argomento lo interessasse. Il corpo del telegramma conteneva un elenco di possibili argomenti per mostrare a Martin quanto ampia fosse la libertà di scelta che gli veniva data. L'unica restrizione imposta era di limitarsi agli Stati Uniti. Martin comunicò la propria impossibilità e il proprio rammarico per mezzo di un telegramma a carico del destinatario. Un immediato successo accolse anche Wiki Wiki, pubblicato su Warren Monthly. Fu quindi ristampato in volume in una edizione di lusso con ampi margini e splendide decorazioni, che conquistò il mercato dei vacanzieri e si bruciò in un attimo. La critica fu unanime nel sostenere che il posto di quel racconto era tra due classici, Il diavolo nella bottiglia e Pelle di zigrino, opere di due grandi scrittori. Nel frattempo la raccolta Gioia e cenere fu accolta dal pubblico piuttosto freddamente. L'audacia e l'originalità di quelle novelle turbarono la moralità e i pregiudizi della borghesia. Ma quando Parigi impazzì per l'istantanea traduzione della raccolta, anche i lettori americani e inglesi si accodarono e comprarono così tante copie del libro che Martin costrinse quei conservatori della Singletree, Darnley e Company, a garantirgli una percentuale del 25% per un terzo libro e del 30% per un quarto. Quei due volumi raccoglievano tutti i racconti brevi scritti da Martin che erano stati pubblicati sui giornali o stavano per esserlo. La prima raccolta era formata da Il suono delle campane e dai racconti dell'orrore, l'altra da Avventura, Il crogiuolo, Il vino della vita, Il vortice, Una strada piena di folla e altri quattro racconti. La Lowell Meredith Company si aggiudicò tutti i suoi saggi, mentre la Maximilian Company si impossessò delle Liriche del mare e del ciclo dell'amore. Quest'ultimo fu anche pubblicato da Ladies Home Companion dietro pagamento di una cifra esorbitante. Martin sospirò di sollievo quando anche l'ultimo manoscritto fu sistemato. Il castello dalle mura di canne e l'elegante bianca goletta erano davvero a portata di mano. Bene, in ogni caso la diatriba tra lui e Brissenden, se qualcosa di buono potesse apparire sulle pagine delle riviste, si era conclusa. Il suo successo dimostrava che Brissenden aveva avuto torto. Eppure, in qualche modo, Martin sentiva che, dopo tutto, l'amico aveva avuto ragione. La causa del suo successo era stata la vergogna del sole e non le cose che aveva scritto. Meri accidenti che Martin aveva offerto a destra e a manca ed erano sempre stati rifiutati. La pubblicazione di La vergogna del sole aveva scatenato una controversia facendo precipitare un'intera valanga di voti in suo favore. Se non ci fosse stata La vergogna del sole, non ci sarebbe stata alcuna valanga. Se alla pubblicazione di La vergogna del sole non fosse accaduto un miracolo, non ci sarebbe stata alcuna valanga. I responsabili della Singletree, Denley e Company riconoscevano che era avvenuto un miracolo. Inizialmente avevano pubblicato una edizione di 1500 copie che non credevano di vendere. Erano degli editori esperti, eppure nessuno era rimasto più meravigliato di loro per il successo di quel libro. Per loro era stato un vero miracolo e non si erano mai ripresi da quella sorpresa. In ogni lettera che scrivevano a Martin si rifletteva il riverente timore che ancora provavano per quel misterioso avvenimento. Non cercavano neppure di spiegarselo. Non c'erano spiegazioni. era accaduto. Era accaduto proprio quando l'esperienza precedente diceva loro che avrebbe dovuto avvenire esattamente il contrario. Con simili ragionamenti che Martin metteva in dubbio il valore della propria popolarità. Era la borghesia che comprava i suoi libri riempiendo d'oro il suo sacco di soldi. Ma da quel poco che Martin sapeva della borghesia, non gli era chiaro come quella classe potesse apprezzare o comprendere ciò che lui aveva scritto. La sua bellezza interiore, le sue capacità, non significavano nulla per tutti quelli che lo acclamavano e compravano i suoi libri. Lui era la moda del momento, l'avventuriero che aveva saltato il Parnaso mentre gli dèi sonnecchiavano. Centinaia di migliaia di persone lo leggevano e lo acclamavano con la stessa brutale incomprensione con la quale si erano lanciate su Ephemera e su Bressenden e li avevano fatti a pezzi. Quegli stessi lupi adulavano Martin invece di azzannarlo, ma che quei lupi azzannassero o adulassero dipendeva solo dal caso. C'era solo una cosa della quale Martin era assolutamente certo. Ephemera era infinitamente più grande di tutto ciò che aveva scritto lui. Era infinitamente più grande di tutto ciò che c'era in lui. Quella poesia attraversava i secoli. E allora il tributo che la plebe gli pagava era un ben triste tributo, poiché quella stessa plebe aveva gettato Ephemera nel fango. Martin, infine soddisfatto, sospirò profondamente. Era felice di aver venduto l'ultimo manoscritto. Presto tutto questo sarebbe giunto alla sua conclusione. Il signor Morse incontrò Martin nell'ufficio dell'Hotel Metropole. Se fosse capitato lì casualmente per svolgere degli affari, o se invece vi si fosse trovato con lo specifico scopo di invitarlo a cena, Martin non riuscì mai a deciderlo, sebbene propendesse per la seconda ipotesi. In ogni modo, ricevette un invito a cena dal signor Morse, dal padre di Ruth, che gli aveva proibito di entrare in casa sua e aveva ordinato alla figlia di rompere il fidanzamento. E Martin non era arrabbiato. Non si sentiva neanche ferito nella sua dignità. No, accettò la gentilezza del signor Morse, domandandosi quanto dovesse essere amaro umiliarsi così. Non rifiutò l'invito. Lo pospose a un momento vago e incerto e chiese invece notizie della famiglia, in particolare della signora Morse e di Ruth. Pronunciò quel nome senza esitazione, con naturalezza. Ma dentro di sé Martin fu sorpreso di non sentirsi fremere, di non sentire il battito del cuore accelerare né il sangue riscaldarsi come in passato. E Martin riceveva molti inviti a cena e qualche volta li accettava. Era avvicinato da degli sconosciuti che si facevano presentare per poterlo invitare a cena e Martin non poteva far altro che tormentarsi, continuando a pensare a quella piccola cosa che stava diventando gigantesca. Anche Bernard Higginbotham lo aveva invitato a pranzo e Martin si era lambiccato il cervello ancora di più. Si ricordava di quando era affamato e nessuno lo invitava a cena. Quello era il momento in cui avrebbe avuto bisogno di inviti. Invece, privato di cibo, si era indebolito fino a quasi svenire ed era dimagrito per vera e propria fame. Era una situazione paradossale. E adesso, che poteva pagarsi 100.000 cene e stava perdendo l'appetito, riceveva inviti da ogni parte. Ma perché? Non c'era alcuna giustizia in tutto questo, e neppure alcun merito da parte sua. Non era affatto diverso da come era allora. A quell'epoca aveva già scritto tutte le sue opere. I coniugi Morse lo avevano condannato come uno scansafatiche e, attraverso Ruth, lo avevano sollecitato ad accettare un posto da impiegato in un ufficio. Per di più, non erano mai stati all'oscuro del lavoro svolto da Martin. Ruth aveva passato ai suoi genitori tutti i manoscritti di Martin, uno dopo l'altro, e loro li avevano letti. E quelli Erano gli stessi manoscritti che avevano portato il suo nome sulle pagine di tutti i giornali. Ed era il suo nome sui giornali che aveva spinto i genitori di Ruth a invitarlo a cena. Di una cosa Martin era certo. Ai Morse non interessavano né lui né il suo lavoro. Quindi, adesso, non lo cercavano per il valore della sua persona o del suo lavoro, ma per la fama che possedeva, perché tra gli uomini Martin Eden adesso era qualcuno e, perché no, aveva $100,000 e forse di più. Questo è il modo in cui la società borghese valuta un uomo. E chi era lui per aspettarsi qualcosa di diverso? Ma Martin era orgoglioso. Non accettava simili parametri di giudizio. Voleva essere apprezzato per se stesso, oppure per il suo lavoro, che, dopo tutto, era un'espressione di se stesso. Quelli erano i criteri secondo i quali lo giudicava Lizzie. E per lei neppure il lavoro aveva importanza. Lei stimava Martin. Martin stesso. E quelli erano i criteri di Jimmy, idraulico, e dell'intera vecchia banda. Ne avevano dato sufficienti prove in passato, quando scorazzavano insieme per tutta la città, e ne avevano dato prova quella domenica allo Shell Mound Park. Il suo lavoro poteva andare a quel paese. Quello che la vecchia banda apprezzava, ciò per cui erano pronti ad azzuffarsi, era Martin Eden. Uno del branco e un bravo ragazzo. Poi c'era Ruth. Lei lo aveva amato per se stesso, questo era innegabile, eppure per quanto lo avesse amato, aveva amato di più i criteri di giudizio della sua classe. Non aveva voluto che lui scrivesse, soprattutto perché, almeno così sembrava Martin, in quel modo non riusciva a guadagnare abbastanza. Quella era stata la critica di Ruth al ciclo dell'amore. Anche lei lo aveva esortato a trovarsi un lavoro. Era vero, aveva usato un termine più raffinato, impiego, ma aveva lo stesso significato dell'altro. E il termine più comune, lavoro, sembrava essersi fissato nella mente di Martin. Lui aveva letto a Ruth tutto ciò che aveva scritto, poesie, racconti, saggi, wiki wiki, la vergogna del sole, tutto. E lei lo aveva sempre esortato a trovarsi un lavoro, ad andare a lavorare. Buon Dio! Come se non avesse lavorato, come se non si fosse privato del sonno, non avesse prosciugato la propria vitalità per poter essere degno di lei. Così la piccola cosa diventava sempre più gigantesca. Martin era in salute, era normale, mangiava regolarmente, dormiva per molte ore, eppure quella piccola cosa che continuava a ingrandirsi stava diventando un'ossessione. Avevo già scritto tutto. Quella frase infestava come un fantasma il suo cervello. Martin era seduto di fronte a Bernard Higginbotham nell'appartamento sopra i magazzini Higginbotham per uno dei suoi tradizionali pesanti pranzi domenicali, e tutto ciò che poteva fare era trattenersi dall'urlare. Allora avevo già scritto tutto. E tu mi dai da mangiare solo adesso, dopo avermi lasciato fare la fame, dopo avermi proibito la tua casa e avermi maledetto perché non avevo un lavoro. E tutti i miei libri erano già conclusi, già scritti, rifiniti. E ora, quando io parlo, non ti lasci distrarre neppure da un pensiero. Pendi dalle mie labbra e ascolti qualsiasi cosa io voglia dire con rispetto e attenzione. Quando affermo che il tuo partito è marcio e pieno di approfittatori, tu, invece di infuriarti, fai dei versi di imbarazzo e poi ammetti che c'è del vero in quello che dico. E perché? Perché sono famoso. Perché ho un sacco di soldi. Non perché sono Martin Eden, un bravo ragazzo, un tipo intelligente. Potrei dirti che la luna è fatta di formaggio alle erbe e tu accetteresti questa informazione, o, se non altro, non la respingeresti, perché adesso ho i soldi, montagne. I soldi. Eppure, il mio lavoro l'ho completato molto tempo fa, lascia che te lo dica. Quando mi hai calpestato come fossi immondizia, io avevo già scritto tutto. Ma Martin non gridò. Mentre quel pensiero gli rodeva il cervello, lo tormentava incessantemente, lui sorrideva e si mostrava cortese. Bernard Higginbotham, quando Martin era diventato silenzioso, aveva preso le redini della conversazione, o meglio, aveva dato inizio a un lungo monologo. Anche lui aveva avuto successo, ne era fiero, si era fatto da solo, nessuno lo aveva aiutato, non doveva nulla a nessuno. Compiva il suo dovere di cittadino e tirava su una famiglia numerosa. E poi c'erano i magazzini Higginbotham, il monumento della sua industriosità e abilità. Amava i magazzini Higginbotham come alcuni uomini amano la propria moglie. Il cognato aprì il suo cuore, rivelando a Martin con quale passione, con quale accurata pianificazione avesse creato il suo magazzino. E aveva altri piani in serbo, piani ambiziosi. Il quartiere stava crescendo rapidamente, il negozio era davvero troppo piccolo. Se avesse avuto uno spazio, Bernard avrebbe potuto apportarvi un gran numero di migliorie per risparmiare fatica e denaro, ed era intenzionato a riuscirne. Stava facendo ogni sacrificio per poter comprare, prima o poi, il terreno a fianco e costruirvi un altro edificio a due piani. Avrebbe potuto affittare il piano superiore, mentre il piano terreno di entrambi gli edifici sarebbe diventato i magazzini Higginbotham. Gli occhi dell'uomo brillavano mentre descriveva la nuova insegna che avrebbe occupato entrambe le facciate. Martin si dimenticò di ascoltare. Quel ritornello, avevo già scritto tutto, che gli risuonava nel cervello fino ad affogare il chiacchiericcio dell'altro, lo faceva impazzire e cercò di sfuggirgli. «Quanto hai detto che costerebbe?» chiese Martin all'improvviso. Suo cognato si bloccò nel bel mezzo di una spiegazione delle opportunità economiche offerte dal quartiere. Non aveva ancora detto quanto poteva costare, ma lo sapeva, lo aveva calcolato migliaia di volte. Al costo attuale del legname, rispose, 4.000 dovrebbero bastare, compresa l'insegna. Quella non l'ho messa in conto, quando ci sarà l'edificio si penserà anche all'insegna, e il terreno, altri 3.000. Bernard Higginbotham si sporse in avanti, passandosi la lingua sulle labbra, mentre guardava Martin compilare un assegno. Stringeva nervosamente le dita a pugno e poi le riapriva. Quando quest'ultimo fu spinto verso di lui, lanciò un'occhiata alla cifra. $7.000. Non posso permettermi di pagarti più del 6% l'anno, disse Rauco. Martin avrebbe voluto mettersi a ridere, ma invece domandò, e quanto sarebbe? Lasciami vedere, 6%, 6x7, 420, cioè $35 al mese, non è vero? E Higginbotham annuì. Beh, allora se non hai obiezioni faremo così, eh? E Martin lanciò uno sguardo a Gertrude. Puoi tenerti il capitale se userai quei $35 al mese per pagare qualcuno che cucini e faccia il bucato e le pulizie. I 7.000 sono tuoi se mi garantisci che Gertrude non dovrà più sgobbare. Andata? Il signor Higginbotham deglutì a fatica. Per la sua anima taccagna era un vero affronto che sua moglie non dovesse fare più i lavori domestici. Quel magnifico regalo, i $7.000... Era l'indoratura di una pillola davvero molto amara. L'idea che sua moglie non dovesse più lavorare lo faceva soffocare. «Va bene, allora», disse Martin. «Pagherò io i $35 al mese per...» E fece per allungare un braccio e riprendersi l'assegno, ma Bernard Higginbotham ci mise sopra una mano per primo, gridando «Accetto! Accetto!» Quando Martin salì sul tram, era nauseato e stanco. Alzò lo sguardo verso l'imponente insegna. «Quel porco!» disse. «Quel porco! Quel porco!» Quando il Macintosh Magazine pubblicò la chiromante, illustrando la condecorazione di Berthier e due disegni di Venn, Hermann von Schmidt dimenticò di avere definito osceni quei versi. Rivelò che la poesia era stata ispirata da sua moglie e fece in modo che questa notizia raggiungesse le orecchie di un cronista. Quindi rilasciò un'intervista a un giornalista, il quale si presentò accompagnato da un fotografo e da un disegnatore. Il risultato fu un'intera pagina in un supplemento domenicale, piena di fotografie e disegni idealizzati di Marian e di dettagli personali su Martin Eden e tutta la sua famiglia. Faceva seguito il testo completo di La Chiromante, stampato a grandi caratteri e ripubblicato con un permesso speciale del Macintosh Magazine. L'articolo mise in subbuglio l'intero quartiere. Le brave massaie erano orgogliose di avere tra le loro conoscenze la sorella di un grande scrittore, mentre coloro che ancora non lo conoscevano cercarono di avvicinarla. Hermann von Schmidt, nel suo piccolo negozio di riparazioni, si fregava le mani e decise di ordinare un nuovo torchio. È meglio della pubblicità, commentò con Marian, e non costa nulla. Forse dovremmo invitarlo a cena, suggerì lei. Massimo Popolizio ha letto Martin Eden di Jack London. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it